Robert, arrivando, m'aveva avvertito che c'era molta nebbia, ma mentre parlavamo, questa non aveva smesso di infittirsi. Non si trattava più della leggera bruma che avevo sperato di veder salire dall'isola ad avvolgerci, Madame d'Ester Maria e me. A due passi i lampioni si spegnevano ed era notte, profonda come un'aperta campagna, in una foresta, anzi in una molle isola di Bretagna verso la quale avrei voluto dirigermi. Mi sentii perduto, come sulla costa di qualche mare settentrionale dove si rischia 20 volte la morte prima di arrivare alla locanda solitaria. Da miraggio di cui si va alla ricerca, la nebbia si era trasformata in pericolo contro il quale si lotta, tanto che sperimentammo, nel rintracciare la strada e giungere a destinazione, le difficoltà, l'inquietudine e, infine, la gioia per l'acquisita sicurezza, così inavvertibile per chi non sia minacciato di perderla, del viaggiatore perplesso e disorientato. Una sola cosa rischiò di compromettere il mio piacere durante quella gita avventurosa, a causa dell'irritato stupore in cui mi gettò per un istante. «Sai, ho messo in chiaro con Bloch», mi raccontò Saint-Lieu, «che tu non sei poi così entusiasta di lui, che gli trovi dei lati volgari. Ah, che vuoi, sono fatto così, mi piacciono le situazioni nette». Concluse con aria soddisfatta e in un tono che non ammetteva repliche. Rimasi stupefatto. Non soltanto nutrivo la fiducia più assoluta in Saint-Lieu, nella lealtà della sua amicizia, e lui l'aveva tradita dicendo quelle cose a Bloch, ma mi sembrava in più che egli avrebbe dovuto esserne impedito dai suoi difetti non meno che dalle sue qualità, da uno straordinario patrimonio d'educazione capace di spingere la cortesia sino a una certa mancanza di franchezza. La sua aria di trionfo era quella che assumiamo per dissimulare il nostro imbarazzo confessando una cosa di cui sappiamo che non avremmo dovuto farla? Era effetto d'incoscienza? Una sciocca pretesa di erigere a virtù un difetto che non gli conoscevo? Un accesso passeggero di malumore contro di me che lo spingeva a lasciarmi, o lo strascico di un accesso passeggero di malumore nei confronti di Bloch, al quale aveva voluto dire qualcosa di sgradevole anche a rischio di compromettermi? Il suo volto, del resto, mentre mi diceva quelle parole volgari, era stigmatizzato da un'orribile sinuosità che gli ho vista una o due volte appena nella vita e che, seguendo dapprima più o meno l'asse centrale della faccia, una volta arrivata alle labbra, le storceva in una ripugnante espressione di bassezza, quasi di bestialità del tutto transitoria e senza dubbio ancestrale. Doveva verificarsi, in quei momenti, che certo non si ripetevano che una volta ogni 2 anni, un'eclissi parziale del suo io, in coincidenza col passaggio della personalità ad un antenato che proiettava su di lui la propria ombra. Non diversamente dall'aria soddisfatta di Robert, anche le sue parole «mi piacciono le situazioni nette» davano adito allo stesso dubbio e avrebbero meritato lo stesso biasimo. Avrei voluto dirgli che se uno ama le situazioni nette dovrebbe avere simili accessi di franchezza per ciò che lo riguarda e non sfoggiare una troppo facile virtù a spese degli altri. Ma già la vettura si era fermata davanti al ristorante, la cui vasta facciata sfavillante di vetrate e di luci riusciva a sola a fendere l'oscurità. La nebbia stessa, grazie al confortante chiarore dell'interno, sembrava, sin dal marciapiede, indicare l'entrata con la gioia di quei camerieri che riflettono l'umore del padrone. Si ridava delle sfumature più delicate e mostrava la porta d'ingresso come la colonna luminosa che guidò gli ebrei. Ce n'erano parecchi, d'altronde, fra la clientela. Era in questo ristorante, infatti, che Bloch e i suoi amici erano venuti per molto tempo, ebri di un digiuno dal quale uscivano affamati come dal digiuno rituale, che perlomeno ricorre una sola volta all'anno, nonché di caffè di curiosità politica, a riunirsi ogni sera. Poiché ogni eccitazione della mente trasmette un valore eccezionale, una qualità superiore alle abitudini che ad essa si collegano, non c'è passione un po' viva che non crei e unifichi attorno a sé una società nella quale la considerazione degli altri membri è la stessa che ciascuno persegue principalmente nella vita. Qui, fosse pure in una cittadina di provincia, troverete dei patiti di musica. Il meglio del loro tempo, la maggior parte del loro denaro lo spendono in audizioni di musica da camera, in riunioni in cui si parla di musica, al caffè dove ci si ritrova fra cultori di musica e si sta a contatto di gomito con i musicisti. Altri, appassionati d'aviazione, ci tengono a farsi notare dal vecchio cameriere del bar a vetri appollaiato in cima all'aerodromo, al riparo dal vento, come nella gabbia di vetro di un faro, potranno seguire, in compagnia di un aviatore che in quel momento non vola, le evoluzioni di un pilota che esegue dei loopings, mentre un altro, un attimo prima ancora invisibile, atterra, posandosi bruscamente con lo strepito d'ali dell'uccello Rook. Grande importanza a quel caffè attribuiva, analogamente, la piccola consorteria che si riuniva per cercare di approfondire e perpetuare le fuggevoli emozioni del processo Zola. Era però mal vista dai giovani nobili che costituivano l'altra parte della clientela e avevano adottato una seconda sala del caffè separata dalla prima soltanto da una leggera balaustra ornata di piante. Costoro consideravano Dreyfus e i suoi partigiani alla stregua di traditori, anche se, 25 anni dopo, quando le idee sarebbero state archiviate e il dreyfusismo avrebbe avuto il tempo d'assumere nella storia una certa eleganza, i figli, bolscevizzanti e gran ballerini di valzer, di quegli stessi giovani nobili, avrebbero dichiarato, rispondendo alle domande degli intellettuali, che se fossero vissuti a quell'epoca avrebbero sicuramente parteggiato per Dreyfus, senza peraltro avere dell'affare una nozione molto più precisa che della contessa Edmond de Pourtalès o della marchesa di Galifet, altri astri già spenti il giorno della loro nascita. Se non che, in quella sera di nebbia, i nobili del caffè, destinati a diventare i padri dei giovani intellettuali retrospettivamente dreyfusisti, erano ancora ragazzi. Certo, le rispettive famiglie progettavano per tutti loro un ricco matrimonio, ma non se n'erano ancora realizzati. Ancora virtuale e appetito contemporaneamente da più d'uno, è vero che i buoni partiti in vista non scarseggiavano, ma in fin dei conti il numero dei pretendenti superava di gran lunga quello delle doti cospicue. Il ricco matrimonio si limitava, per il momento, a suscitare fra quei giovani qualche rivalità. Disgrazia volle che, fermatosi qualche istante Saint-Lieu a dare istruzioni al vetturino perché tornasse a prenderci dopo pranzo, mi toccasse entrare da solo. Tanto per cominciare, una volta infilatomi nella porta girevole con cui non avevo dimestichezza, temetti di non riuscire più a venirne fuori, diciamo di sfuggita, per gli amatori di un vocabolario più preciso, che tale porta bussola si chiama, a dispetto delle sue apparenze pacifiche, porta revolver, dall'inglese revolving door. Quella sera il padrone del ristorante, non osando uscir fuori all'umido né trascurare i suoi clienti, indugiava accanto all'ingresso per il piacere di ascoltare le gioiose lamentele dei nuovi venuti, tutti illuminati dalla soddisfazione di chi è appenato ad arrivare e temuto di perdersi. Ma la ridente cordialità della sua accoglienza fu dissipata dalla vista di uno sconosciuto che non riusciva a liberarsi dalle mobili pareti di vetro. Quel segno flagrante di ignoranza gli fece aggrottare il sopracciglio come a un esaminatore che ha una voglia matta di non concedere il dignus est intrare. Per colmo di sventura, andai a sedermi nella sala riservata all'aristocrazia, dalla quale egli mi fece rudemente sloggiare, indicandomi, con una malagrazia a cui tutti i camerieri si affrettarono ad uniformarsi, un posto nell'altra sala. Questo mi riuscì tanto meno gradito, in quanto il divano cui corrispondeva era già pieno di gente e si trovava proprio di fronte alla porta riservata agli ebrei, che, non essendo girevole, si apriva e richiudeva ogni momento mandandomi orribili ventate gelide. Ma il padrone me ne rifiutò un altro, giustificandosi con un «No, signore, non posso disturbare tutti quanti solo per voi». Ben presto, d'altronde, dimenticò quell'avventore tardivo e molesto che io ero, tutto preso dall'arrivo di ogni nuovo cliente che, prima d'ordinare il suo boccale di birra, la sua ala di pollo freddo o il suo grog, l'ora del pranzo era passata da un pezzo, doveva, come nei vecchi romanzi, pagare lo scotto raccontando la propria avventura appena penetrava in quell'asilo di calore e di sicurezza, dove il contrasto con ciò cui era sfuggito faceva regnare la stessa cameratesca allegria che scalda i cuori davanti al fuoco d'un bivacco. Uno raccontava che la sua carrozza, credendo d'aver raggiunto Pont de la Concorde, aveva fatto per 3 volte il giro degli Invalides. Un altro che la sua, cercando di percorrere Avenue des Champs-Élysées, era finita in un boschetto del Rond-Point, da cui aveva impiegato 3 quarti d'ora per uscire. Seguivano lamentazioni sulla nebbia, sul freddo, sul silenzio di morte delle strade, proferite e ascoltate con un'eccezionale gaiezza che si spiegava con l'atmosfera dolce della sala, dove, a eccezione del mio solo posto, si stava al caldo, con la vivida luce che faceva strizzare gli occhi ormai abituatisi a non vedere e con il brusio della conversazione che rimetteva in attività le orecchie. Per chi arrivava, restare in silenzio era un tormento. La singolarità delle sue peripezie, che credeva uniche, gli bruciava la lingua e i suoi occhi cercavano qualcuno con cui attaccare discorso. Il padrone smarriva egli stesso il senso delle distanze. «Il signor principe di Foix s'è perso 3 volte venendo da Port-Saint-Martin», non si peritò di dire ridendo, non senza additare il celebre aristocratico, come in una presentazione a un avvocato israelita il quale, in qualsiasi altro giorno, ne sarebbe stato separato da una barriera ben più insormontabile di quel tramezzo ornato di verzure. 3 volte, pensate un po', commentò l'avvocato toccandosi il cappello. Il principe non apprezzò la frase d'avvicinamento. Apparteneva a un gruppo aristocratico per il quale l'esercizio dell'impertinenza, persino nei confronti della nobiltà, quando non fosse di primissimo rango, sembrava costituire l'unica occupazione. Non rispondere a un saluto. Se la persona si permetteva cortesemente d'insistere, sogghignare con aria beffarda o gettare indietro la testa con aria furiosa, far finta di non riconoscere un uomo anziano cui si doveva riconoscenza, riservare stretta di mano e saluto ai duchi e agli amici assolutamente intimi dei duchi, presentati dai duchi medesimi. Tale era l'atteggiamento di quei giovani e del principe di Foix in particolare, atteggiamento favorito, certo, dal disordine della prima giovinezza, età in cui, anche nella borghesia, si fa la figura di ingrati e di villanzoni, perché, avendo dimenticato per mesi di scrivere a un benefattore che ha perduto la moglie, si finisce poi col non salutarlo più per semplificarsi la vita. Ma ispirato, soprattutto, da un acutissimo snobismo di casta. È vero che, al pari di certe affezioni nervose, le cui manifestazioni si attenuano nell'età matura, questo snobismo avrebbe per lo più cessato, in coloro che erano stati giovani così insopportabili, di tradursi in comportamenti tanto ostili. Passata la giovinezza, è raro che si resti ancorati all'insolenza. Dopo aver creduto che non esistesse altro, si scopre all'improvviso, per principe che si sia, che esistono anche la musica, la letteratura, magari la carriera di deputato. L'ordine dei valori umani ne risulta modificato e si comincia a dialogare con gente che anni prima si sarebbe fulminata con lo sguardo. Buon per quelli che, tra costoro, hanno avuto la pazienza ad aspettare e il cui carattere è, se possiamo esprimerci così, abbastanza positivo da consentirgli di provare qualche piacere nel ricevere verso la quarantina la graziosa accoglienza rifiutata loro, seccamente, a 20 anni.